L'Italia che esce dilaniata dalla guerra è un paese non solo prostrato economicamente, ma anche profondamente diviso sul piano politico. La presenza del più forte partito comunista d'Occidente e di una radicata tradizione sindacale provocano una dura coercizione e controllo nei confronti della sinistra, d'accordo con le necessità della guerra fredda. Gli anni 50, in particolare, rappresentano un periodo di repressione da parte dell'apparato politico-industriale e di regressione del movimento operaio e progressista. È con il decennio successivo che si verifica il ritorno della mobilitazione sindacale e politica da parte della sinistra. A partire dal 1960 comincia a formarsi un clima culturale e politico che culminerà con le contestazioni studentesche ed operaie del biennio 68-69. È l'inizio della stagione dei movimenti, che andrà avanti fino alla fine degli anni 70, ovvero soggetti politici, giovanili e operai dalle rivendicazioni radicali, organizzatisi in formazioni per lo più extraparlamentari e critici non solo verso il sistema in quanto tale, ma anche verso la tradizione comunista ortodossa identificata dal PC, nei suoi apparati e nell'URSS. All'esplodere dell'antagonismo politico e al rafforzamento delle sinistre furono contemporanei una dura risposta degli apparati di sicurezza e controllo statali, da un lato, e un proliferare della violenza neofascista nelle città, spesso coperta dallo Stato, dall'altro. Inevitabile era uno scontro non solo politico, ma anche fisico, durante le manifestazioni contro i reparti di polizia e i carabinieri, spesso duri nel reprimere i movimenti in piazza. D'altra parte, le aggressioni e gli omicidi di neofascisti contro militanti antagonisti e comunisti aumentarono significativamente per quasi un decennio. Più forte era la risposta a sinistra, più accanita era l'aggressione da parte della destra e degli apparati di sicurezza. Milano, in particolare, fu il centro della mobilitazione operaia e studentesca, dove più forte fu lo scontro fra le spinte radicali al rinnovamento e le forze della reazione. Milano era una città divisa e le vie dei suoi quartieri portano ancora la memoria di chi cadde giovane durante le battaglie per difendere la democrazia e conquistare inalienabili diritti sociali.